plastica del reggimicrofono, quello che vendono è il contrario, cioè c'è un pezzettino di plastica che entra in una forchetta al reggimicrofono d'acciaio. È il contrario, è il contrario. Devo andare a trovare quello allora, per posizionare il microfono e fare le prove, perché tenendo le mani cambia notevolmente, bisogna appoggiarlo. Va bene. L'altro pezzo ce l'hai, è rotto lì, ce l'hai il pezzo che è rotto? Ma non è, poi hanno cercato di aggiustarlo con lo scotch, con l'attacco, hanno fatto una cagata, è per quello che alla fine quel prezzo era 17 euro, però la scheda interna è perfetta, va solamente leggermente pulita perché c'aveva un po' di... questo idiota cosa ha fatto? Aveva messo un pacchetto di batterie da 1,5x2 e evidentemente gli si sono ossidate, aveva lasciato ossidare all'interno, un casino ha fatto, allora le ho tolte con il pacchetto di batterie e adesso l'hanno anche provato, a dirti la verità, con una capsula normale, però non dava grandi risultati, quindi comunque il circuito amplificazione interno funziona. Te lo lascio, vedi tu se hai qualcosa da poter adattare. Ho sentito un rumore di piatti e mi sa che Anna sta apparecchiando. Hai sentito bene, come se c'hai il... se hai quel pezzo lì, hai visto che è praticamente lungo, si accorcia leggermente, si rifà il foro e si mette dentro, capito? Quel pezzettino che c'è, no? Del portamicrofono. Ce n'è abbastanza per rifare la canalatura, per inserirlo dentro. Ma negativo, non era quello rotto, capito? Era proprio la parte che reggeva il microfono, era un'ala era spaccata. E quello nero stai dicendo, quello di plastica, se non l'hai spaccata si taglia anche l'altra ala, si fa la canalatura nuova e si insacca dentro facendo un foro nuovo, capito? No, non mi hai capito. È presente quello che proprio tiene il microfono fisicamente, cioè la molletta. Io ti sto dicendo, sì, il pezzo, tu stai pensando che si sia rotto il foro che aggancia la molletta al pezzo d'acciaio, no, quello era intonso, integro, proprio il pezzo che regge il microfono, cioè i due lati del pezzo che regge il microfono, uno dei due lati è spaccato. Uno dei due lati è spaccato, ho capito. Vabbè, fammelo vedere qua. Non ce l'hai il pezzo vecchio, vero? Per la misura? No, lo dovrei avere, a dire la verità, e non nella mia macchina, capito? Però già riesco a ritrovarlo, non c'è problema. Vabbè, lo facciamo che era il foro proprio che era rotto. Se lì già si può fare quel pezzo. Si può fare, al turno si può fare. Di plastica, si fa in polietilene. Fine fine, poi si salda, si attacca al microfono, altrimenti dovrebbero venderlo comunque, no? Non credo ci siano problemi. Caragaba, ascolta, mi dai 2 secondi e proviamo un attimino, perché non ho attaccato ancora l'antenna, però ho capito perché ho stazionato, ah, vabbè, può essere caduta anche adesso, molto probabile anzi che lo sia, perché volevo provare un attimino, sono riuscito a tenere come stazionario un E4 con quel discone, volevo vedere se riusciva a trasmettere. Prova, solita frequenza. Prova, non fosse troppo alta, boh. Prova nell'1 LPD, canale 1 LPD. No, negativo, quella frequenza lì. 434. Lì. Va bene. Poi dovresti mettere quella lì e rifare la prova. Quella è la sua antenna. Ah, sì, no, ma assolutamente, era solamente per vedere se... la mia preoccupazione è che la radio abbia problemi, capito? Dopodiché non ci sono problemi, sicuramente metto quella, anzi la metto stasera stessa appena c'è meno caldo. Dammi 2 secondi che collego tutto, stacco qua. E io, va bene. Questa? Sempre la mia, però l'ho tirata su. Fanno sgasci. Aspetta un attimino. E io. Quanto sei tu al massimo? Sì, sempre la maletta questa. Questa è bassa? 39. Media? Sempre al massimo. Tutta canna. Ola, ola, ola. Dalla media alla massima non cambia niente, mentre quella invece minima 6-9, manca tutto il tratto quello largo, diciamo, per capire, dai. Quello alto, le barre tutte alte mancano, il resto ci sono tutte. Un attimino allora. Aspetta un attimo. E ce le ho 1,5 come stazionare, vanno bene? Sì, sì, a 1,5 vanno benissimo. Non è troppo, come la tua dovrei scendere. Quella mia c'ha 1,1, quella grande sto usando io, quella lì dovrebbe essere uguale a 1,1, quella che ti ho fatto io. E la ricezione sicuramente è migliore. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Vabbè, il cerchione, o come si chiama, il discone, non è che sia male come ricezione, però... Beh, un po'. Se riesci a montare quella lì è meglio. Con calma, magari non oggi, quando c'è il tempo, intanto adesso... Con questa qua ho visto un miglioramento, c'è stato. Ma è importante che stia uscendo poi. Eh sì, vuoi mettere adesso sì al minimo? Sì, al minimo. Lo metto anch'io al minimo. Qual è il minimo? Quello di centro, di sotto? No, a destra, al centro a destra. Ecco qua, io sono al minimo, adesso mi senti? Santiago 9. Ok, lascio stare così al minimo allora. Così mi ascolti il segnale 9 e io 9 anche a te, quindi vanno bene. KK, è lampeggiante ma va benissimo. Lampeggiante in più o in meno? In più ho adesso stazionare a 1 e 2. 1 e 2 ce li hai tu adesso? K. Allora va bene. Senti questo rumore? Sì, lo sento anch'io, sono rumori di questa alta come frequenza. Sono rumori di quegli affari della TV. Tranquillo comunque. Sì, sì, tranquillo. Gabba gabba, dai. Lasciamo così tutte e due in love. Poi quando hai 2 minuti vedi un pochino di sistemare l'altra antenna e facciamo la differenza. Tappa di logge. Ok, buona carica. Ci sentiamo dopo, dai. Ok, a dopo. Ciao ciao. Buona cena, buona un pranzo anche a te. Tappa di logge, altrettanto. Ciao ciao. Ciao. Chi è? Io sono io, e lei chi è? Io sono io, chi sei, Daniele? No, sono Agricola, buonasera. Ebbene, sono Smarra Agricola, tutto bene? Sì, sì, sto bene, sta facendo caldo. Attacca l'aria condizionata. Sai chi sono, sì. 185. Tutto bene, poi per il resto. Sta facendo caldo, la nostra posizione sta Giacobbe oggi era al mare, ma non è che si stava molto bene. Infatti per essere andato dietro le dune, c'è troppo vento. Alghero sì, ad Alghero perché il vento tira poco. Io e sono c'ero anche sabato, anche ieri notte. No, ero con la famiglia. Che ha fatto, hanno fatto i carabinieri a Alghero, sono sequestrato patenti, trovato gente in stato di ebbrezza, hanno trovato un guidano senza patente, non ne avevo mai preso di patente. Hanno fatto una razzia a carabinieri, Palmadura, Alghero, non so quante patrulle di carabinieri c'erano, hanno fatto nuocavano tutte le macchine che passavano. Hanno trovato droga, ne hanno trovato poche robe. Niente imbriaga, guidando, uno di furia anche. Uno di Bologna mi sembra ubriaco e un altro di Porto Torres. Invece per loro che bevono roba alcolica quando guidano, basta stare attenti, io non ne bevo roba alcolica quando devo guidare, a parte non ne bevo mai, ma quando guido specialmente un bitter, una menta fresca, una granita, quello che vuoi, però roba alcolica no. Ma tutti devi ribizzicare che si guidano bevuti. Che li devono tutti prendere questi che guidano che hanno bevuto, perché molta gente muore per colpa loro. Da incontinente, cazzo, questi extracomunitari che si ubriacano, albanesi, osaso, rumeni, ammazzano la gente così. Ubriachi i frasi di da guisci in macchina e fanno danno. E allora? Ho preso due russi l'altro giorno, mi avevo accompagnato un'imbarcazione che aveva un carico di roba per loro. Cazzo. Con l'impulla di birra in mano sono giunti. E vabbè. Bevono come, bevono un bel bevono. Sono venuti con me in furgone, ma erano a piedi, però dico, l'abitudine che hanno proprio questa gente qui di bere. Dove sei tu adesso? Però l'antenna come mi hai promesso a casa non te l'hai mai busta, eh? Magando. Guarda che ce n'è una da GBC che è un bel buona, costa poco, con 50 euro te la compri. Non è turbo, è un'antenna che vede la GBC, della Midland, è senza radiali, è dritta, senza radiali e spara un bel. Va molto bene come antenna, l'ho sentita all'Antonello di Ussi, da tutte le parti l'ho sentito bene. Sì, di giorni la uso, Baragli, perché? Tutti e due me li ho visti. Me li ho visti tutte e due le volte, l'hanno fatto tutte e due le volte, l'ho visto, ma già va bene, Andare. Era molto bello. Sì, ce n'erano anche nuvi, ce n'erano, proprio nuvi di zecca. Non ci ho fatto caso, comunque sono tanti a guardare i carri, ma i carri di trattori già ce n'erano, anche molto grandi ce n'erano. Nuvi di zecca, proprio si vedeva brillanti. E tu non hai sfidato quel trattore, no? Ciao Davide. avanti. Oh, vai, vai, vai. E a Mario, popolaccio. Mario, Mao. Io stavo parlando lo stesso baracchino, anche se avevo una voce un po' di una persona che non stava molto bene, dai. Si sentiva che non stava bene, ma poi ormai era diabetico, cosa, quindi un po' tutto l'insieme, il caldo l'ha portato all'attacchicardia, perché lui mi diceva sempre che questi giorni aveva l'attacchicardia, probabilmente anche il caldo. Ma era grande, avevo 80 e passarne, ma sempre un grande amico, forse il più vecchio della frequenza. Un grandissimo amico, una persona di lusso, lo svelo. Bravo, tranquillo. Cosa puoi fare? Quando succedono queste cose non c'è nessuna spiegazione da dare. Purtroppo, quando ci tocca ce ne andiamo tutti. Magari c'è la grassi attorno al cuore, eccetera, eccetera, quindi si rialza, eccetera, eccetera, quando non beve, mangia così, è un casino, mi piace a tutti mangiare, ma purtroppo se non si può fare a mangiare molto, non si fa. Così fanno le vele, quando tu mangi molto il grasso si ferma nelle vene e ti ostruisce le arterie e alla fine ti viene un infarto, c'è poco da fare. Quando sono ostruite il sangue non passa più o ti viene qualche ictus perché si blocca la vena, non passa il sangue, ti viene un ictus, si scoppiano le arterie e ti viene l'ictus. Una volta sono andato a caricare degli agnelli a costruire, ho trovato i pastori da mattina a presto alle 7 stavano mangiando salsiccia, lardo e vino. A me che di mattina a presto, ma sto scherzando, tutti questi mi hanno voluto dare anche un boccione di acqua vita per bere il viaggio, se bevo questo è il viaggio, cazzo, mi trovare in fumo. Sempre, bisogna regolarsi sempre, gli sbagli li fanno tutti, ma se uno si rende conto che poi la cosa non va bene, bisogna che si corregga. Sentiamo, vorrei...